se yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Considerate quello che diremo questa mattina un'appendice da voi richiesta alla puntata di ieri sulla possibilità di scegliere derive sensuali a pagamento che appaghino e che naturalmente tolgano alcuni cascami fastidiosi a quello che è un puro rapporto di soddisfazione dei propri sensi. Ho ricevuto molti messaggi, molti mi hanno scritto sul profilo di Facebook che si è animato per tutta la giornata su questo argomento, e il tema che è venuto fuori, che vorrebbero ascoltatrici soprattutto, ma anche ascoltatori che trattassi questa mattina, è quello del nomadismo sensuale. Cosa significa il nomadismo sensuale? Vi leggo alcuni passi di una lettera che mi ha scritto un'ascoltatrice. Sono una donna gelosa, ossessionata dalla paura di essere tradita, ma questo non mi ha mai impedito di essere pervasa emotivamente in modo irrazionale dal nomadismo sensuale. È un languore che consuma. Non devo chiedere permesso e non è necessario essere corrisposta. Anzi, non deve durare a lungo, altrimenti si corre il rischio di trasformare un battito d'ali in un rapporto stanziale, e questo sarebbe un peccato. Non più un intimo e raro abbandono, forse un fidanzamento. Ecco, il nomadismo sensuale è il tema di questa mattina. Il nomadismo sensuale può essere esperienza e può essere percorso che procede pari passo con quello che è un rapporto affettivo stabile? Questa è la domanda. Si può essere nomadi nei sensi e fedeli e statici nell'impegno affettivo, amoroso, nel rapporto con un'altra persona? Beh, per partire questa domanda la sentiamo come l'ha espressa, almeno come la vede come soluzione Nicole Kidman, quando in un momento molto, molto particolare si rivolge al marito, non ha capito nulla di lei, e gli dice esattamente cosa c'è dentro una donna. Milioni di anni di evoluzione, vero? Mentre gli uomini si preoccupano di infilarlo dovunque possono, le donne devono solo pensare alla stabilità della famiglia, alla fedeltà coniugale e a chissà quali altre cazzate. Un concetto troppo semplificato, Alice, ma di sicuro è qualcosa del genere. Se invece voi uomini solo sapeste... Tutto quello che so è che tu stasera sei strafumata. Ogni pretesto è buono per litigare con me, e adesso cerchi anche di farmi ingelosire. Ma tu non sei il tipo che si ingelosisce, vero? No. Non lo sono. Tu non sei mai stato geloso di me, è così? No, neanche una volta. E posso sapere perché non sei mai stato geloso di me? Oh, questo non lo so, Alice. Probabilmente perché sei mia moglie. Può darsi perché sei la madre di mia figlia. Forse perché penso che tu non mi tradiresti mai. Tu sei un uomo molto, molto sicuro di se stesso, vero? No, sono sicuro di te. Tom Cruise rimane come un allocco, seduto sul letto, nudo, guarda la moglie che sarà fatta un super cannone, che ride in maniera quasi isterica, e comincia a capire che in realtà dietro la madre della sua figlia si celava un universo per lui insondabile, e lo andò a sondare in maniera anche troppo profonda. Il film l'avrete riconosciuto perché è un classico, l'ultimo film di Kubrick, Eyes Wide Shut, ma in realtà è tratto da una novella di Arthur Schnitzler, che è ambientata nella Vienna degli anni venti. In questo rapporto di coppia si cominciano a sondare e quei territori non espliciti, quelli che appunto appartengono al lecito percorso e percorribile nomadismo sensuale di ogni persona. Ricordi l'estate scorsa quando eravamo a Cape Cod? Sì. E ti ricordi una sera in sala da pranzo c'era un giovane ufficiale di marina seduto al tavolo vicino al nostro insieme ad altri due ufficiali? Io l'avevo già visto la mattina nella hall dell'albergo. Lui mi ha guardato mentre passava, così di sfuggita, solo un'occhiata. Non pensavo che a lui, continuamente, non riuscivo a togliermelo dalla mente. Ero sicura che se lui mi avesse voluta, mi dicevo anche soltanto per una notte, sarei stata pronta a mandare all'aria ogni cosa, a sacrificare te, Elena, e il mio fottutissimo avvenire. Kidman, Nicole Kidman comincia a fare un racconto di viaggio del suo nomadismo sensuale. Nomadismo sensuale non significa necessariamente una sorta di rapace percorso che porti poi alla congiunzione sessuale. Lo dice anche la nostra ascoltatrice quando parla del nomadismo dei sensi, che non si pratica e non si ricerca, se ne godono gli effetti senza pagare pegno. Dice sempre questa ascoltatrice: mi sorprende che quando si parla di argomenti legati alla sensualità e al piacere i riferimenti si concentrano sul sesso, su rapporti carnali di evasione, su moglie e mariti amatissimi, oracolo di casa, ma pur sempre cornuti. Probabilmente la vera peccatrice sono io, che rileggo con ansia, come se fosse la prima volta, le lettere del mio primo amore, e ancora oggi solo a tenerle tra le mani quelle lettere tremo e non sono pentita. Mi chiamo Francesca e ho 39 anni. Lavoro, sto insieme al mio compagno da circa 4 anni. Faccio lo scambismo da 2 anni. La mia esperienza precedente di matrimonio, che è durata 13 anni, è stata un'esperienza particolare, nel senso che è stata molto chiusa, diciamo con poca fiducia da parte di entrambi. E credo che questo sia la base comunque della mia attuale esperienza di scambismo, nel senso che mi sono accorta che comunque con quella poca libertà la persona che stava vicino a me tendeva comunque a tradirmi, e questo è stato forse il dolore più brutto che ho avuto nella mia vita. Dopo questa esperienza mi sono detta che l'esperienza futura, cioè quella che avrei avuto dopo, sarebbe stata un'esperienza molto più rassicurante, più gratificante e più vera e più libera soprattutto. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son. Queste chiamate dee dagli ingannati sensi, a cui tributa incensi la debole ragion, sostreghe che incantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar. 800240024. L'idea dello scambismo è nata così per caso, nel senso che comunque abbiamo risposto alle nostre fantasie delineandolo pian piano, insomma. Diciamo che la proposta è venuta un po' da entrambi, nel senso che tra di noi durante i rapporti c'erano queste fantasie particolari, e allora ci siamo detti proviamo a fare questa cosa. C'è stata un po' di paura in principio, perché comunque non sai di che cosa si tratta fino a che non provi questa cosa, però c'era quasi la volontà di andare contro alle paure rispetto all'abbandono, rispetto al tradimento, rispetto al discorso di far entrare una persona che poteva essere meglio di me in un rapporto. Sono state sconfitte, nel senso che comunque con questa esperienza siamo riusciti a capire che è una cosa che addirittura ci gratifica, che apre delle porte al nostro star bene, insomma, alla nostra complicità. Questa coppia ha aperto veramente gli occhi, ha dato un senso compiuto al nomadismo sensuale che ci affligge come una malattia, come un inganno dell'anima o come un farmaco di sopravvivenza in ogni rapporto stabile, oppure si è creato un nuovo inferno. 800240024. Siamo crudamente passati da una romantica testimonianza e confessione pudibonda, sofferta ma sensualmente intrisa di senso del peccato che dà un sapore speciale ad ogni cosa, di un'ascoltatrice che confessa il suo nomadismo sensuale, il suo tremare di pene e morsi d'amore solo tenendo in mano delle lettere di un antico amante con il quale poi non ha mai consumato nulla di fisico. Quindi il nomadismo sensuale è uno stato di perenne fibrillazione in attesa o intenzione o protratti verso il desiderio comunque di un'uscita dalla regola rispetto alla gestione dei propri sensi, che licitamente andrebbe amministrata in famiglia, amministrata nel rapporto di coppia, amministrata in ciò che socialmente, lecitamente, eticamente, religiosamente viene considerato il sacello, il luogo in cui si consuma tutto ciò che riguarda i sensi. Ma i sensi non si tengono a freno, i sensi molto difficilmente possono essere contenuti semplicemente con atti di volontà. I comportamenti possono essere contenuti. Uno si può imporre dei comportamenti eticamente corretti, socialmente accettati, accettabili per non creare traumi, non creare dolori nelle altre persone. Ma in realtà il nomadismo sensuale è irrefrenabile, una sorta di spinta su cui non possiamo fare nulla. E quando questo nomadismo sensuale si incontra o si incrocia o diventa un fantasma allucinato assieme, si concretizza poi in scelte come quella della nostra ascoltatrice. Anche lei aveva telefonato ieri per parlarci della possibilità di acquistare pacchetti vacanze dei propri sensi e ha raccontato la sua storia e noi ve la proponiamo. Il piacere consiste nel fatto comunque in principal modo di riuscire a fare una cosa che è un tabù per tanti, invece che per te diventa comunque una fonte di gratitudine. Il fatto comunque di non appartenere a una categoria di persone che hanno paura di alcune cose, consiste, non so, nell'essere liberi di guardare, di assaporare queste cose, sono cose comunque primordiali, è eccitante molto per una donna. C'è anche una certa sinuosità comunque nel discorso prettamente fisico, nei corpi che si incontrano, nella libertà di scegliere che cosa ti piace fare e in che modo farla, senza che nessuno possa offendersi. Ora, gli esteti o gli specialisti del nomadismo sensuale sanno perfettamente che ogni rapporto di coppia in realtà non si consuma mai in due, si consuma minimo in 4, in 5, in 6, in 20. In 20, se potessero mai prendere corpo e sostanza quelli che sono i fantasmi dei due nomadismi sensuali delle due persone. Però possono esistere delle scelte, non sto qui a giudicarle, non sto qui a pormi come censore delle scelte altrui, che in realtà cominciano a dare consistenza a questi fantasmi. Quindi non possono più essere chiamati dei nomadi sensuali le persone che fanno la scelta della nostra ascoltatrice, scelta dal suo punto di vista perfettamente appagante, ma che naturalmente la tarpa di una fondamentale risorsa nella propria emotività, che è quella del nomadismo sensuale. I sensi non hanno più necessità di correre nomadi alla ricerca di sensazioni, di sapori, di profumi, di porte socchiuse nelle quali uno può scegliere di entrare o no, ma i sensi sono obbligati a una nuova routine, una routine periodica che comporta che entrambe le persone entrino e escono continuamente in questa sorta di Stargate che rende concreto, carnalmente e sostanzialmente percepibile, ciò che prima apparteneva soltanto ai percorsi sottili del nomadismo sensuale. Lo scambio di coppia avviene simultaneamente, oppure comunque c'è, non so, si può anche stare a guardare, nel senso che comunque non è detto che tutti e quattro, tutti e sei debbano partecipare allo stesso modo, nello stesso momento. A volte a me è capitato di guardare il mio uomo che comunque aveva dei rapporti con una donna ai quali io comunque guardavo e partecipavo soltanto visivamente. Già comincio ad arrivare ai primi commenti, me ne leggo qualcuno. Barbara dice: con evidenza logica non sarebbero sensi altrimenti se non fossero nomadi. I sensori, le estensioni in continuo movimento, antenne che sondano, toccano, elaborano dati e rispondono, nomadi per antonomasia. Simone risponde: i sensi sono un'interfaccia che supera l'io, di conseguenza sono vigliacchi e traditori per definizione, come se l'io fosse la rappresentazione della verità, della rettitudine, dell'esistenza pura. L'io è qualcosa di mutevole e assolutamente relativo. Non appena compare il sole, poi bollori indicibili invadono all'improvviso la mente, portando il corpo a vagabondare per tentazioni estreme. Il controllo è impossibile, meglio imparare ad ammaestrarli. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sono Andrea da Roma, quartiere EUR. Per quanto riguarda delle donne, Gianluca? Sì, sto sentendo. Allora, per quanto riguarda, come sono a cacciare prima l'uomo, cioè sono a prendere l'uomo. Guardi, la sento malissimo, Andrea. Magari facciamo la telefonata perché c'è una linea molto poco percettibile. Andiamo avanti nella storia della nostra ascoltatrice che ha dato senso concreto al proprio nomadismo sensuale e a quello del suo uomo. Si parla molto dell'esperienza fatta, di quanto una donna ti possa aver dato, di quanto un uomo ti ha potuto fare. È come se ci fosse comunque una fantasia che alimenta quelle già precedenti, e ogni situazione è diversa da un'altra, per cui ogni situazione ti può dare comunque un altro apporto. È una cosa strana, apparentemente in controsenso, però il fatto di farlo comunque richiesto da tutte e due e con la stessa voglia da parte di tutte e due porta questa cosa ad darci un legame molto forte. Poi noto una sorta di lieve sconcerto nel nostro pubblico. Lo sconcerto è dato dal fatto che usi la parola sensuale. Oggi, se volessi parlare di sesso crudamente, farei un'operazione abbastanza logorata nell'abuso che ne è fatto quotidianamente. Il sesso è medicalizzato, il sesso è psicanalizzato, il sesso è trasformato in una merce di consumo che naturalmente perde la sua consistenza, la sua essenza, più se ne parla, più se ne discute, più diventa argomento di conversazione. Parlare di sensualità e parlare di sensi, invece, probabilmente è qualcosa che appartiene più a una formula passata nel considerare la forza e l'importanza dei nostri ricettori nei confronti del mondo e degli effetti che producono in noi. Il sesso è già una normale e lodevole esplicitazione di una tensione sensuale. Ma se ci fermiamo al passo precedente di analizzare la percezione dei nostri sensi e capire che probabilmente, ma questa è una domanda che faccio, ho detto che sia così, il nomadismo o l'irrequietezza dei nostri sensi non è qualcosa di controllabile e nemmeno qualcosa di ascrivibile in una relazione, probabilmente desta molto più scandalo. A me non andrebbe di vedere persone con cui ho avuto a che fare nei privé, perché comunque è una cosa assolutamente distaccata dalla realtà, nel senso che è come fosse un sogno. Il fatto di non riportarla nella realtà la rende ancora più bella. A me non piacerebbe, perché comunque mi piace proprio il privé come posto, perché comunque è un posto molto adombrato, è un posto con delle luci particolari, con una musica soffusa, è un posto che non ha niente a che fare col resto. È come se restasse una fantasia rispetto a una realtà diversa. E poi tu puoi attingere dalla fantasia ogni quando ne hai voglia, ogni quando lo decidi, ogni quando la tua fantasia te lo richiede. Sono importanti, secondo me, di tutta la testimonianza alla nostra ascoltatrice queste parole, la definizione di un luogo fatato, di un luogo magico in cui sia possibile l'uscita dalla regola. In questo caso lei parla del privé. Non so, a me viene un piccolo senso di sorriso. Il privé è la versione casareccia e molto strapaesana della meravigliosa villa del film di Kubrick, in cui c'è quella straordinaria orgia mascherata che è alla base di tutto il film. Non si capisce bene poi quanto appartenga al sogno e alla realtà quello che accade in quel luogo. L'uomo che lì si reca alla ricerca della moglie non saprà mai se fra quelle donne mascherate c'è anche sua moglie. La mattina troverà accanto al suo letto, con la moglie addormentata, la maschera che lui mise la notte della grande orgia satanica con accoppiamenti plurimi, e mai saprà, ma avrà la conferma, se anche lei ha materialmente passato lo starghetto ed è entrata in quel luogo del sogno in cui tutto è possibile, tutto può accadere, poi si ritorna alla realtà come se l'aver consumato una deriva sensuale non lasciasse nessun segno in noi. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo contribuire un po' alla discussione. Nel senso, nomadismo sensuale io lo vedo attaccato da nomadismo sessuale, come invece potrebbe essere un discorso di scambismo. Ma infatti, guardi, mi permette, poi la lascio parlare con tranquillità. Ci ho tenuto molto a contrappuntare con quella che era la domanda del nostro pubblico sulla possibilità di godere, di assaporare in pieno il nomadismo sensuale, con un racconto che poteva avere anche una sua crudezza, che parla in realtà di un nomadismo concreto, carnale, pratico. Loro non si fermano all'immaginazione, ma concretamente hanno creato un luogo che sembra appartenere all'immaginazione, ma è concreto e reale, dove consumano concretamente poi. Io posso portare una mia esperienza recente, nel senso, io sono felicemente sposato, ho una pagante rapporto sessuale con mia moglie, però per lavoro, per le varie attività che svolgo, vengo a contatto parecchie volte con delle belle donne e quant'altro, e con alcune di esse ho avuto modo poi di trovarmi anche successivamente. E in particolare ultimamente con alcune c'è un rapporto che è molto vicino a quello che potrebbe essere un discorso concreto di rapporto sessuale, diciamo. Però la cosa, quella coscienza, diciamo, che ti trattiene da entrambe le parti, fa sì che la cosa resti ancorata, resti legata a un discorso esclusivamente sensuale, cioè il suo è un adulterio interruptus. Sì, in, parte potrebbe essere definito così, però è anche bello, tra virgolette, pensare, immaginare, dire come andare a finire. L'importante secondo me è poi non avere rimorsi da una parte e dire cosa, porca miseria, essere divorati, venire divorati a questo desiderio. Sì, esiste poi l'infame formula popolare, ahimè, Tranchant, che dice ogni lasciata è persa, e se lei pensa questo molte volte si può avere dei problemi. Ci siamo lasciati con una lettura possibile, delle tante possibili, del nomadismo sensuale di cui vogliamo parlare questa mattina, è che quella dell'adultero interruptus. Un signore viaggiatore dice che lui ha delle uscite continue dalla regola, uscite oniriche che arrivano fino alla zona liminare della consumazione del rapporto, poi si ferma perché normalmente il senso etico, l'impegno, alcune garanzie che danno a lui tranquillità e sicurezza lo fermano, lo bloccano. Ma può essere chiamato nomadismo sensuale il nomadismo sensuale che comunque ha uno sbarramento, ha una sorta di limite, o ci si pone limiti al nomadismo sensuale? Io qualche messaggio che mi sta arrivando su Facebook, mi dice Liliana: il nomadismo dei sensi non è mica un delitto, mica detto poi si giunga a un tradimento, altra sorta di ambiguità. La curiosità è un valore aggiunto alla vita, si può cercare negli altri anche soltanto stimolo di riflessione. Io non voglio fare la santarellina, mi ritengo curiosa e sono attratta da persone, fatti e cose che mi stimolano la mente. Ecco, il nomadismo sensuale che si pone il limite, cioè io arrivo fino a questo punto, ma oltre questo punto so che non andrò, mi posso lasciare andare fino alla zona X, ma la zona X in poi non fa per me. Barbara: chi esplora non può stare nell'uno neppure nel due, si indaga, si assaggia, si entra in relazione con tutti i sensi, ognuno è consapevole delle soglie che può attraversare, ognuno decide cosa giocarsi e cosa no. L'esploratore non è fatto per la coppia, ma non tutti amano essere esploratori, così chi non ama e chi non lo è, quando gli succede di entrare in contatto con l'altro, con uno dei due sensi, è probabile che gli venga sconvolto e che la viva come un tradimento. Quindi il nomadismo sensuale in sé, soltanto il desiderare, soltanto il lasciarsi andare alla fase di assaggio, di esplorazione, per qualcuno è qualcosa che si sente con forte senso di colpa. Ma il senso di colpa, come dimostra la lettera della prima ascoltatrice che vi ho letto, in realtà è proprio quello che dà sapore e spessore e piacere alla deriva sensuale. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Intanto complimenti per il tema trattato così in mattinata, che non è un tema dei più sottili, diciamo, ecco, è un tema che ne andrebbe approfondito molto. Dice un tema da sera questo. Come? È un tema serale. È un tema, sì, sarebbe un tema più da replica serale, diciamo, che anche le luci soffuse e il buio aiutano. Beh, un po', io spero che sia anche un utility per questa sera alle 22, quando ci sarà la replica, potrete ascoltarlo in coppia, in gruppo o in compagnia, e quindi vi aiuterà, vi gioverà, vi stimolerà le derive sensuali, spero. Sì, perché il buio aiuta un po' diciamo, l'apertura mentale. Sì, dopo una certa età soprattutto. Sì, infatti io ho 52 anni, quindi sono molto vicino alla sua età, ecco, siamo un po' coetanei, ecco. Niente, volevo portare un po' la mia esperienza, diciamo, ecco. Sì, io questi locali in passato li ho anche frequentati quando c'era una certa complicità di coppia, diciamo. Volevo sottolineare un Cioè, fatto. Ci portava sua moglie? Beh, più che ci portavo, ci andavamo, perché il termine portare non è un po' Mi sa un po' da trascinamento. Vabbè che in queste cose di solito è il maschio che fa da locomotiva, diciamo, c'è sempre nella coppia, c'è sempre la locomotiva. Beh, di solito in queste cose c'è un trenino continuo, non si capisce più chi è la locomotiva, chi è il vagoncino del frenatore. Adesso sì, forse 10-15 anni fa le cose erano un po' diverse. E volevo sottolineare soprattutto il fatto, io da buon pasoliniano, diciamo, no? Volevo sottolineare il fatto di tutti questi tradimenti, tutte queste separazioni, queste avventure d'ufficio o in aziende varie, eccetera, eccetera, che se nella coppia, se ci fossero, diciamo, delle aperture mentali reciproche, perché il guaio di queste cose è che di solito non sono reciproche, sono, diciamo, soggettive, cioè vengono a un solo elemento nella coppia. Se nella coppia ci fosse una complicità e un'apertura mentale tale da frequentare un po' questi ambienti un po' che sembrano poi chissà che cosa, ma in realtà sono ambienti normalissimi, diciamo. Sì, io sono una cosa, se mi permette, mestamente, io sono l'ultima persona che pone limiti ai comportamenti altrui, alle fantasie altrui, però se la coppia intesa in questo senso diventa una sorta di società di mutuo soccorso, che ne so, oppure quelle società che si fanno per un interesse reciproco, dice vabbè, siamo una coppia, però ognuno porta il capitale del partner in questi luoghi in cui ci si scambia, il mio capitale è mia moglie o mio marito, ma e tu mi dai la tua. Mi posso permettere? No, si figuri. Volevo dire che questi luoghi non sono poi esclusivamente dedicati allo scambio, sono posti che stimolano anche la fantasia, cioè una coppia può benissimo stare nelle sue, diciamo, non è detto che si deve aprire ad altri. In ogni caso non è una cosa certamente, il mio discorso che facevo prima non è una cosa certamente abitudinaria, cioè se uno ci va ogni sabato chiaramente diventa una malattia più che una fantasia. Cioè io intendevo dire che ogni tanto una valvola di sfogo, un buon rapporto di coppia, un buon rapporto di complicità eviterebbe secondo me certi sguardi lunghi negli uffici che poi arrivano a conseguenze con separazioni varie, insomma, ecco, questo che chiaramente è un punto di vista soggettivo mio, insomma, ecco. Sì, diciamo che ci sono interessanti indicazioni da parte di osservatori della contemporaneità e profeti del futuro come Jacques Attali, ne parleremo forse fra qualche giorno, che prevedono una società futura fatta di una sorta di società di mutuo soccorso, di caduta totale del senso del possesso di un partner, tutti metteranno tutto in comune perché accadrà quello che già accade molto diffusamente in rete, che ci scopriamo improvvisamente capaci di molteplicità affettive e relazionali. Però viviamo un presente, siamo anche molto legati, ahimè, alle convenzioni e ai limiti del tempo in cui viviamo. Daniele, buongiorno. Buongiorno. Sì, la sto ascoltando. Mi siete? Certo, sì. Buongiorno, sì. Io volevo riportare la mia esperienza, anche se mi complimento con l'ascoltatore di prima, perché apprezzo tantissimo quelle persone che all'interno della propria coppia sono riuscite ad avere un rapporto di complicità tale da affrontare anche il discorso dello scambio di coppia, che mi sembra veramente difficile, e quindi apprezzo moltissimo. Io volevo riportare una mia breve esperienza, perché io, a proposito di nomadismo sensuale, diciamo, l'ho vissuto con un'amica con la quale ho arrivato a una confidenza tale da poter dire qualsiasi cosa. Però da lì al nomadismo sessuale c'era pochissimo, perché poi alla fine si capiva che saremmo arrivati lì, e per salvare questo rapporto d'amicizia si è deciso di troncare questo. Quindi io credo che sì, il nomadismo sensuale sia bello se si parla di fantasie intime che uno vive, come la signora di prima, che leggendo la lettera del suo primo morosino provava ancora certi sentimenti, certe sensazioni, e fino a lì ci credo. Il nomadismo sensuale, quello che ti porta ad andare oltre la famiglia, oltre la coppia, e vivere della sensualità degli altri, senza però vivere la sessualità, credo che sia anche un po' il masochismo, perché alla fine credo che il... Ecco, ma secondo lei, mi scusi se la interrompo, proprio nell'ultimo minuto prima della pausa per le forze del traffico, ma questo scavallamento, questo salto del fosso, questa entrata nella dimensione poi del rapporto fisico, è qualcosa di così tragico, così trascendentale, così no, mutante della nostra... Perché tutti si fermano, dice, beh, ci fermiamo, dopo aver amoreggiato e essersi stuzzicati per settimane o per mesi, dice no, però il grande passo non lo facciamo, meglio lasciarsi. Ecco, cosa c'è di drastico e di irreversibile nel sfociare poi in un normale rapporto fisico? Beh, probabilmente perché forse è una questione di sensi di colpa, perché forse... Ecco, sì, ma adesso insisto una domanda, ma lei non ha già tradito in maniera molteplice e diffusa e profonda nelle settimane di frequentazione della sua amica sessuale? Assolutamente sì. Non è quei pochi centimetri di carne che si congiunge e poi, esatto, che cambia la situazione? Assolutamente sì, però forse il fatto di non arrivare lì ti lascia quel senso di tranquillità o comunque vada, quando anche nascono dei sospetti nella tua partner, il poter dire ma guarda che io con quella non ho avuto nessun tipo di rapporto, credo che sia più tranquillizzante che è la ragione per cui il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton si lasciava andare con la sua stagista a rapporti limitati alla parte superiore della persona, che dice così non faccio adulterio, però mi sembra una grossa ipocrisia. 800 24 00 24, devo registrare questa mattina la totale pneumatica inquietante assenza di ascoltatrici al di sotto della soglia dei 75 anni che telefonino per raccontare il loro punto di vista su un argomento molto scabroso, molto difficile da trattare, sul quale anche soltanto un respiro, una pausa, un silenzio, un assenso, un colpo di tosse può già sbilanciare completamente il giudizio su una persona. Avevamo iniziato a trattare il tema del nomadismo sensuale, perché ce l'hanno proposto molte ascoltatrici. Dopo aver ascoltato una puntata ieri sull'amore prezzolato consumato da donne, hanno detto: ma esiste questa sensazione di poter lasciare andare tranquillamente i sensi? Il lasciare andare tranquillamente i sensi è tracimato drasticamente, ma perché noi seguiamo il flusso delle persone che ci chiamano, non abbiamo idee preconcette, perlomeno teniamo ben dentro le nostre convinzioni, ma cerchiamo di creare confusione in modo che emergano il più possibile pareri a contrasto tra loro, perché questo fa parte di una dialettica che alla radio è fondamentale perché la radio sia ascoltata. Beh, è emerso drasticamente il tema dei luoghi di saturazione, di compensazione delle fantasie sensuali, i club di incontro, i privé, la coppia aperta, il tacito assenso della libertà di adulterio, o al contrario, l'adulterio interruptus, quello che si ferma sulla soglia alla consumazione sessuale, come diceva l'ascoltatore, io mi lascio andare a fantasie anche profondamente intrise di sensi con amiche mie, ma non arrivo mai alla consumazione dell'atto sessuale, perché se mi beccano con il sorcio in bocca posso dire: con questo non ci sono mai stato a letto, magari ci ho fatto dei film assieme che mi hanno portato via l'anima da quella che è il focolare domestico. Mi scrive Stefano: a me questa mi sembra più ipocrisia sensuale. Se una persona è single può sfruttare, se lo desidera, il suo ruolo nella società e pertanto il suo nomadismo sensuale, ma se una persona accompagnata, sposata, deve essere responsabile fino in fondo. Oppure se vuole andare anche con altre persone, abbia il coraggio di dirlo al compagno, compagna, e dia pure lui a lei questa opportunità se lo vuole, altrimenti ne accetti le conseguenze. Comodo avere la governante. Si vede che non ha molta esperienza di rapporto stabile di coppia, che è tenuto assieme comunque da una serie di piccoli quotidiani compromessi, di piccole quotidiane ipocrisie. La tenuta di un rapporto è anche dal saper gestire bene le proprie derive sensuali e a volte, e capita a tutti, le proprie derive sessuali. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo esprimere la mia opinione al riguardo. Io sono convinto che il rapporto di coppia è una perversione inventata da noi umani. Il vero amore si consolida nella poligamia. E è un po' come il guaio sta che si mettono insieme due cose: il sodalizio di idee che si ha con una persona, che può esserci anche un'amicizia con lo stesso sesso, e il fattore biologico che è il sesso. Facciamo il paragone col cibo: io ho una carenza di carboidrati, mangerò il piatto di pasta, sarà il mio stereotipo di cibo, ma se lo mangio tutti i giorni andrò a sognare un'altra cosa, magari un piatto di carne, mi creerò un'altra carenza, quella di proteine. Sì, per questo esempio. Normalmente chi fa un patto, ma non è detto che poi tutti poi siano tenuti a rispettarlo. Ma perché è impossibile. È impossibile. Sì, ma le dice, a un certo punto mi permette, sì, sono d'accordo che è molto difficile, ma le persone, prendo le parti di coloro che potrebbero risponderle facilmente, cioè noi abbiamo fatto un patto, sappiamo che è una prova dura, ma noi affrontiamo ogni giorno l'impegno, rinnoviamo l'impegno di mantenere l'unicità. Riguardo e questo stavo sottolineando, che questo patto è una perversione di noi soli umani, che rispetto agli altri esseri viventi della Terra, secondo me siamo alieni, facciamo cose strane. Sì, però guardi, le posso dire, scientificamente il rapporto sessuale per l'essere umano deve durare 20 secondi, coitus citus. Ma infatti io i miei primi rapporti sessuali come la generazione... No, adesso non voglio sapere le sue durate. ...con i giornalini, ma dopo una settimana mi stancavo di un giornalino e ne dovevo prendere un altro, quindi sì, questa naturalità del nomadismo sessuale è un fatto che è proprio istituito nella nostra biologia, deve esserci. Io non posso, non esiste una donna per me alta, magra, bionda, snella, scema, intelligente allo stesso tempo, quindi io magari andrò a compensare la mia carenza con una donna, ma poi anche se ce ne avrò sicuramente delle altre carenze che verranno fuori o si formeranno perché sarò le mie cellule saranno in esubero. Lei è sposato, donna. Solo questo lo saperà, ha un rapporto stabile oppure? Io ho un rapporto con una persona totalmente diversa da me, è una filippina, è una ragazza filippina. Vabbè, totalmente grazie, diversa da me, me ci lega l'attrazione sessuale e ora ci ha legato il nostro sodalizio, ci ha legato un figlio, è uscito un figlio, quindi magari se non era per questo bimbo non avevamo questo freno inibitore che ci portasse a condividere insieme una cosa che è il bambino. Io credo che abbia bisogno di madre e di padre, e quindi finché il ragazzo non è capace di intendere e di volere, noi vogliamo, abbiamo deciso di... E poi cosa fa? La cambia? Anarchici, voglio dire. Scusi Nico, poi la cambia quando il bambino cresce? Ma indubbiamente se il fatto di far crescere il bambino non è che deve essere una promessa anche verso il bambino, guarda che io e mamma facciamo sesso perché ti dobbiamo... Vabbè, il bambino in questo momento pensi sia totalmente disinteressato. Totalmente la cosa. Io e lei stiamo insieme come persone, abbiamo in comune questo bambino, quindi è come magari due amici che hanno in comune una moto, per dire, se la dividono, se la curano insieme, però ognuno di loro ha le sue storie, mangia quello che vuole, va con le donne che vuole. Io e lei cresciamo insieme questo bambino e ci prendiamo entrambi le nostre libertà. Diciamo è una... sì, è brutto il termine, è un po' una governante... Ma io posso permettermi, sì, una metafora che ho inventato io, certo, no? Come si dovrebbe amare? Allora immaginiamo un fiore su un prato. Cosa avviene? La fotosintesi clorofiliana, quindi sì, la pioggia lo innaffia, il vento lo riproduce, eccetera. Ora l'uomo che fa? Con la sua perversione che poc'anzi citavo, va dal fiore e dice ah, quanto è bello, quanto lo amo, e lo stacca. E di conseguenza, proprio la possessività è questa la perversione dell'uomo, di conseguenza il fiore appassisce. Quindi l'amore dell'uomo è sempre conseguenza di morte. Bisognerebbe amare come la pioggia, come il vento. Vabbè, complimenti, ha una vena poetica che avrà senz'altro rapito la sua dolce compagna filippina, quindi gli faccio i migliori auguri. Giuseppe. Pronto? Giuseppe, noi stiamo trattando, secondo lei, il tema con sterilità. Io do semplicemente voce ai vari pareri degli ascoltatori, ogni tanto prendo parte. Dica la sua. Certo, certo. Io dico la mia senza voler giudicare assolutamente il pensiero degli altri, per carità. Volevo riferire la mia esperienza di... Io ho 56 anni e praticamente come se avessi vissuto due vite. Una vita, una prima parte abbastanza dissoluta, se dissoluto si può, è un termine che si può usare in questo senso. Ma mica una parolaccia. Esatto, nel senso di... Anzi, a volte è molto un termine che comporta piacevolezza di costumi, essere dissoluto. Esatto, esatto. E io questa prima parte la individuo come... Per me è stato un periodo di ricerca, ecco, di confronto con l'altro sesso, con le altre donne. Ecco, poi la fase, diciamo, della maturità, cosa ha corrisposto? Ecco, con un matrimonio felicissimo e sono fedelissimo. Cioè, a prova di bomba. Esiste anche questa realtà, perché vogliamo far finta che non esista? Cioè, non vorrei far sentire degli alieni o dei marziani le persone che hanno il suo punto di vista. Esatto, io ho 56 anni. Viaggio per lavoro per l'Italia, per l'Europa, per cui ho avuto nella mia vita occasioni... È inattaccabile, è inattaccabile. E lei ha anche fiducia che sua moglie, quando lei viaggia per lavoro, sia altrettanto inattaccabile. Le faccio migliori auguri. Certamente sì, e la riprova è... Ma guardi, su queste certezze si basa poi un rapporto di coppia, perché se uno comincia a porsi dei dubbi, poi vive male. Chiara, concludiamo con lei nell'ultimo minuto. Sì, buongiorno. 36 anni, finalmente ho rotto il muro delle settantenne. Eccomi, io sono rimasta un po' allibita dall'intervento fatto precedentemente, quello di Giuseppe. Anzitutto noi non siamo animali, quindi è anche giusto che abbiamo dei comportamenti diversi da quello degli animali. E poi fondamentalmente, secondo me, in un atteggiamento che va alla ricerca di qualcosa di diverso sta una insoddisfazione di fondo. Se io sono insoddisfatta di mio marito, del mio compagno, non ho necessità di andare a cercare altro. Se voglio altro lo cerco insieme a lui, con lui, non insieme a lui con altri. Questo è il mio punto di vista. Quindi, in conclusione, è una terza via rispetto alle due che sono solidificate qui e radicalizzate, l'indissolubilità del rapporto di coppia e la complice ricerca di derive, che sembra che sia la più moderna soluzione. Esiste la sua terza soluzione, dire se ci sono dei problemi, vediamo di risolverli all'interno. Io ho anche delle curiosità, io mi rivolgo a mio marito, non vado con lui da altri. E spero che suo marito per lei sia fonte inesauribile di soddisfazione delle sue curiosità, ma sa come succede, dopo un po' si conosce talmente bene una persona che tutte le curiosità, ahimè, trovano facile soluzione e inizia il nomadismo sensuale. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0. 2.0.